Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, Argentina 2, Corea del Sud 0. I coreani hanno semplificato quasi subito il cammino agli argentini con un'autorete abbastanza incredibile nella prima parte del primo tempo. Poi c'è stata una brutta notizia per gli argentini, perché si è infortunato Samuel, che è uscito per una contrattura probabilmente alla coscia, è entrato al suo posto Burdisso. Questa non è certamente una buona notizia per Maradona e per l'Argentina. In compenso, da lì a poco Higuain, su un'altra diciamo esitazione, ecco, per usare un eufemismo, della difesa coreana, Higuain ha trovato il gol del 2-0, quindi l'Argentina in pratica dovrebbe aver già chiuso questa partita che le permetterebbe di praticamente vincere il girone, in ogni caso installarsi in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due sole giornate, e quindi con la possibilità anche nella terza partita di poter fare a meno di Samuel e di provare a recuperarlo con calma. È un problema che riguarda molte squadre questo, e il fatto che l'Argentina riesca, sempre che poi la partita si conclude in questa maniera, ad andare avanti senza sto seguendo, adesso c'è una parata del portiere coreano che ha rischiato lo 0-3 su un tiro di Di Maria, che l'Argentina riesca a risolvere tutto sommato con una certa facilità queste pratiche, è assai più significativo in rapporto alle difficoltà che le altre favorite incontrano, a cominciare dalla Spagna, e sapete tutti che disastro sia stato ieri per la Spagna il debutto contro una magnifica Svizzera. Peraltro i padroni di casa, i sudafricani, sono praticamente fuori. Sono tutti argomenti che saranno il telaio dell'appuntamento di oggi, che però essendo il 17 giugno è una data storica per il calcio italiano. Perché? Perché è il 40° anniversario di una data incancellabile, che è quella del 17 giugno 1970, come stavolta senza grandi voli di fantasia ci ricorda Nicola Filippone. Allora sentiamo un sembra ieri che è tra una ricostruzione di oggi e una invece datata 40 anni fa. Sembra ieri. 17 giugno 1970. Allo stadio Azteca di Città del Messico, davanti a 100.000 spettatori, va in scena una sfida destinata a fare epoca. Tra Italia e Germania Ovest c'è in palio un posto per la finale mondiale. In diretta via satellite dal Messico, la nazionale italiana, con le belle precedenti prove, specialmente con la partita contro il Messico nei quarti di finale, ha conquistato il diritto di disputare allo stadio Azteca la semifinale per il campionato del mondo. Albertosi, Burni e Cefacchetti, Bertini, Rosato, Cera, Domenghini, Mazzola, Boninsegna, De Sisti, Riva. Il merito di aver dato vita a una partita epocale va distribuito tra diversi protagonisti, ma certamente se Schnellinger non avesse pareggiato al 90° l'1-0 di Boninsegna, Italia-Germania sarebbe stata archiviata semplicemente come una semifinale mondiale. E invece la gara si prolunga nei supplementari più emozionanti che il calcio ricordi. Dopo 4 minuti i tedeschi passano con Gerd Müller, ne trascorrono altri 4 e l'Italia trova il pareggio con il terzino Burnic, che in nazionale non aveva mai segnato prima e mai segnerà più. In chiusura del primo supplementare c'è il tempo per un altro sorpasso, firmato Gigi Riva, ma la Germania non si arrende e trova il 3-3 con un nuovo capolavoro di opportunismo di Gerd Müller. Non passa però nemmeno un minuto e Rivera lascia partire un rasoterra che coglie in controtempo Sepp Maier. Gli azzurri, stavolta, riescono a gestire il vantaggio negli ultimi interminabili minuti e nelle piazze italiane, a notte fonda, può finalmente scattare una festa che chi ha vissuto non dimenticherà mai. Ma non la dimenticherà nemmeno chi quella festa non l'ha vissuta, perché nel frattempo sono passati 40 anni, ma ne ha sentito parlare, ne ha letto, ha raccolto testimonianze familiari o di amici, e quella è stata la più grande suggestione, io credo, al di là poi del fatto che la finale sia andata in altra maniera, la più grande suggestione collettiva della storia del calcio italiano. Ed è la data certamente più fortunata che si ricordi della storia del pallone per il 17 giugno, perché per esempio qualche anno prima, nel 54 a Losanna, c'era stato l'esordio dell'Italia contro la Svizzera e ha perso 2-1. Svizzera che appunto sta rinverdendo gli allori di quei tempi. Il 17 giugno del 1986 ci fu l'ottavo di finale Francia-Italia a Città del Messico, quello in cui La Francia di Platini, insomma, non lasciò margini all'Italia. Fu proprio Platini a segnare il primo gol, poi raddoppiato da Stopirà. E se vogliamo andare avanti, perché è chiaro che queste sono le date delle storie dei mondiali, il 17 giugno del 62 il Brasile vinse il suo secondo mondiale consecutivo, battendo in finale a Santiago del Cile la Cecoslovacchia con i gol di Amarildo, Zito e di Vavà, dopo che il vantaggio iniziale era stato dei cechi con Masopust. Fino a qui la storia la ricostruzione di una data, ripeto, storica per il nostro calcio. 42 minuti quasi ormai in Sudafrica, Argentina, Corea del Sud, sempre sul 2-0. Noi possiamo cominciare a sentire qualche voce che arriva dal Club Italia, per esempio, in attesa di dare la linea già ad un ascoltatore. Per esempio possiamo sentire, per anticipare le condizioni di Buffon, una valutazione del vicepresidente federale Albertini. Non solo perché è importante nello spogliatoio, ma perché ci crediamo che di avere delle possibilità di poterlo recuperare. Lui è il primo che ci deve credere, ma sinceramente rimane con noi ben volentieri. Uscita di pochissimo una grande giocata di Messi pochi istanti fa, sempre 2-0 per gli argentini. Cristiano ha chiamato da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Garanzini. Da Lecco, per cui tifoso in parte bruceleste e in parte bianconero, quest'anno è stata una brutta annata. Però a parte quello, nulla, io credo che sono, insomma, Lippi lo stimo abbastanza, però io credo che davanti siamo un pochettino poca cosa, no? E l'unico giocatore a cui dare fiducia era finalmente Di Natale, però con Di Natale devi giocare con le due punte davanti, altrimenti giustamente è meglio giocare con Iaquinta e Pepe. Altro aspetto è che sicuramente Gilardino soffre quella posizione da unica punta. In pochi possono farlo, lo può fare forse Milito nell'Inter, e poi quando ripartono ovviamente hanno la qualità di Eto'o e dell'altro, che a volte Pandev, a volte Balotelli, non è né Iaquinta, probabilmente neanche Pepe, anche se Pepe sicuramente ha fatto un'ottima partita. Per cui io direi che deve provare 4-4-2 con Di Natale e poi o Pazzini o Gilardino per esaltare i doti dell'una e dell'altra punta. Poi il resto, grossi problemi non ce ne sono. Anche la diffidenza su Cannavaro, sì, anch'io l'avevo, però in realtà si è dimostrato che un uomo d'esperienza comunque là ci vuole, insomma, e penso che per adesso, insomma, questa scelta gli sta dando ragione. L'unica cosa, ecco, vediamo Di Natale più vicino alla prima punta, perché questo può essere davvero il nodo cruciale. Grazie. Questa può essere, sì, questa può essere una chiave di interpretazione. Certo, non è una bella chiave di lettura per l'Argentina, l'errore che ha appena commesso De Michelis, mi pare, al centro della difesa, e che ha dato il gol dell'1-2 alla Corea. Davvero un errore da dilettante allo sbaraglio, ma si vede subito, si è visto subito nel giro di 20 minuti con questo gol preso quale sia il prezzo che l'Argentina deve pagare per questo infortunio di Samuel. Veramente un errore incredibile. Stava per scoccare la sirena della fine del primo tempo con l'Argentina molto serena, e invece adesso molto serena non è più. Maradona sta applaudendo i suoi che stanno uscendo dal campo, ma certamente la situazione è cambiata, non solo nel punteggio ma anche da un punto di vista psicologico. Il secondo tempo sarebbe stato in discesa per gli argentini, adesso invece a questo punto è tutto da ricominciare a giocare. 2-1 all'intervallo, ripeto, tra Argentina e Corea del Sud. Tra poco il collegamento d'ordinanza con Johannesburg. Adesso Stefano dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non volevo parlare di tecnicismi di calcio che non mi competono, volevo soltanto segnalare, come già è stato fatto in altre occasioni, credo, la differenza tra la rete televisiva svizzera pubblica e la rete televisiva italiana pubblica nel trasmettere le partite. Le enfasi, le urla esagerate dei nostri telecronisti, e invece il garbo e la misura dei competentissimi, mi perdoni il superlativo assoluto, telecronisti della televisione svizzera. Davvero un altro modo di vivere il calcio, più vicino alle persone tranquille che non agli esagitati che spesso popolano stadi e televisioni nostrane. Stefano, io insomma non lo dovrei dire, ma magari non lo dovrei dire, però in ogni caso lo dico, che condivido al 100% quello che lei ha detto e che riguarda, tra l'altro, se parliamo del nostro costume, riguarda indifferentemente televisioni pubbliche o meno pubbliche, se parliamo della di quel sottofondo di demagogia, comunque, no? Di demagogia sindacale quasi, no? Perché sembra che comunque fa da sfondo a ogni impegno dell'Italia, oppure a ogni partita collaterale che possa riguardare l'Italia. Io credo che, per esempio, il mancato biscotto, non so, qualcuno lo ricorderà, 2 anni fa agli europei, tra due nazionali che avrebbero potuto ottenere un certo risultato, invece non lo ottennero, produsse una delle telecronache più deliranti e insieme vergognose della storia, ma anche surreali, della storia della televisione italiana. Siamo collegati, credo, con Johannesburg, dove troviamo, non più nello studio centrale di Sky Sport 24, io credo, ma direttamente allo stadio, Fabio Tavelli. Corrisponde? Dove troveremmo Fabio Tavelli se la qualità del collegamento fosse migliore. Fabio? Io non vi sento, provo a parlare io però. Bravo. Intanto buongiorno dal Soccer City Stadium, Argentina 2, Corea 1. È stata una partita nella quale, grazie a un errore difensivo dell'Argentina, credo che avremo un secondo tempo più divertente, perché su 2-0 la partita era ampiamente finita per merito dell'Argentina, ma anche direi per demerito della Corea. Si è giocato una partita totalmente sulla difensiva, ha iniziato la gara credo quasi con l'unico obiettivo di difendere lo 0-0, con 10 giocatori dietro la linea della palla. L'Argentina ha trovato questo gol un po' fortunoso su autorete, poi ha segnato Higuain il gol del 2-0, lì sembrava finita. Higuain ha fatto un gol abbastanza facile di testa dopo una partita sinceramente brutta da parte del giocatore del Real Madrid. Visto un'Argentina meglio a centrocampo, un po' più dinamica, con Maxi Rodriguez al posto di Verón. C'è l'infortunio a Samuel, che è una brutta notizia, è un infortunio muscolare, non ho visto male alla coscia sinistra, gioca Burdisso. Credo che la Corea debba puntare soprattutto in attacco sulla zona di centro-sinistra del suo attacco, perché da quella parte l'Argentina è veramente debole, mentre sulla la parte di centro-destra dell'attacco coreano gli argentini difendono con Heinze e Burdisso e insomma qualcosa combinano, dall'altra parte invece fanno veramente fatica, non a caso l'errore è arrivato da lì. E credo che ci darà un secondo tempo più divertente, perché insomma, su 2-0 per l'Argentina io onestamente pensavo anche di tornarmene al Focus di Stadium, perché la partita era abbondantemente finita. Così invece potrebbe succedere ancora qualcosa. Sono completamente d'accordo. Mi senti adesso, Fabio? No, evidentemente no. Allora dobbiamo provare a ripristinare eventualmente il collegamento un pochino più tardi, perché diventa difficile interloquire se chi oltretutto è in uno stadio in ostaggio a queste infernali vuvuzelas se non riesce a sentire, a parte che sono normale. Però insomma, evidentemente non consente un dialogo. L'Argentina si è di molto complicato la vita, che mi sembra un po' un leitmotiv di questo mondiale, perché insomma a vario titolo se lo sono complicato, prima l'Inghilterra mi sembra, poi l'Italia. L'Inghilterra riaprendo e non riuscendo poi a ricapovolgere una partita che sembrava chiusa dopo 4 minuti, l'Italia andando in svantaggio a palla ferma contro il Paraguay e via via fino direi alla Spagna di ieri, perché mi sembra che la Spagna ieri, prima dei meriti della Svizzera che ci sono stati e sono innegabili, vadano segnalati dei meriti spagnoli. Ma vediamo se Fabio Tavelli è in grado adesso di ascoltare. Ci sei, Fabio? Io Gigi ti sento lontanissimo. Che vai che vieni. No, allora, che vai che vieni. Allora facciamo così. Forse adesso sì. Tentiamo un intervento di atmosfera, perché mi pare che il 3-0 dell'Uruguay di ieri sera abbia completamente cambiato in prospettiva il mondiale sudafricano dal punto di vista, non dico della vivibilità, ma dal punto di vista del piacere ambientale, insomma. Ma guarda, io ho visto parecchi tifosi sudafricani oggi venire qui allo stadio con le loro maledette vuvuzelas e e li ho trovati un po' tristi, ma anche un po' come dire disincantati, nel senso che la partita di ieri sera ha messo, credo, definitivamente a nudo la pochezza della loro squadra e anche, se mi consenti, in generale il livello che mi sembra ormai in calo, ma non da oggi, del calcio africano. Lietissimo di venir smentito, intendiamoci, già magari dalla partita della Nigeria tra poco, ma onestamente vedo il calcio africano in grandissima difficoltà. Ieri ho fatto il viaggio per venire qui al Soccer City Stadium con Massimo Mauro, che ha commentato la partita a Pretoria, e lui mi diceva che ieri c'era veramente da commuoversi per quello che era il clima creato dai tifosi sudafricani allo stadio. Poi però questo non basta, cioè c'è il campo, e il campo è stato impietoso nei confronti della squadra di Parreira. Io credo che mai come in questo momento si debba fare una riflessione forte e seria sul livello dei campionati nazionali, cioè non è possibile davvero costruire delle squadre senza avere un campionato di riferimento. Vanno bene i giocatori che giocano all'estero, vanno bene i Drogba, vanno bene gli Eto'o, vanno bene tutti i grandi campioni che giocano all'estero, ma se non c'è un campionato di un livello sufficiente si fa una grande fatica ad esprimere una nazionale. Ieri parlavo con alcuni colleghi spagnoli, e i quali, delusi dalla partita, ma più che dalla partita direi dal risultato della Spagna, mi contestavano tra virgolette questo, cioè loro dicevano: guarda, noi abbiamo giocato con i primi 11 con 5 giocatori del Barcellona, 3 del Real Madrid, 2 del Valencia e 1 del Villarreal, con fuori un giocatore dell'Arsenal come Fabregas e uno del Liverpool come Fernando Torres. Voi, in quanto nazionale italiana, ma questo è un discorso che va oltre quello che ho detto prima sull'Africa, avevate in campo delle prime 4 squadre, cioè delle 4 squadre che andranno alla prossima Champions League, avevate in campo De Rossi e Zambrotta e basta. E questo io credo che debba far riflettere, ripeto, è sganciato da quello che ho detto prima sull'Africa in generale, però sono tutte annotazioni delle quali non possiamo non tenere conto. Sono d'accordo, perché questo è un discorso serio da fare in prospettiva. Potrebbe essere prima o poi anche l'occasione per un discorso su questa formula, che io trovo sempre più discutibile personalmente. 32 squadre sono troppe, soprattutto se inserite in un girone, vengono lì, si giocano tutto alla prima partita o alla seconda, ma sono scarse in una maniera assolutamente irrimediabile, e poi ci si mette il pallone a complicare ulteriormente la vita. Non vorrei essere maniaco, però c'è un'agenzia, Fabio, appena uscita, in cui Capello stronca questo pallone, dice Fabio Capello: Giabulani è il peggior pallone che abbia visto nella mia vita, perché è impossibile seguire la traiettoria sia per portieri che per giocatori. In certe situazioni questa palla è semplicemente impossibile da controllare, è difficile anche il tiro in porta, come ormai è evidente. Ripeto, mai visto un pallone peggiore per creare difficoltà a giocatori e portieri. Quando si arriva ai Capello, ieri Eriksson, cioè si arriva a tecnici che insomma non sono i giocatori magari indispettiti da una gaffa, da un errore, ma sono tecnici anche di una certa età che ne hanno viste e provate in vita loro, mi sembra che la critica diventi già di uno spessore un po' diverso. Guarda Gigi, due cose. Ieri ho sentito la conferenza stampa di Maradona, e Maradona, che quando si esprime lo fa sempre con una coloritura particolare, ha detto: vorrei che Pelé e Platini si ricordassero il pallone col quale giocavano loro e lo confrontassero con quello che giocano i giocatori adesso. Mi pare autorevolissima come presa di posizione. Devo anche dirti questo però: io ho visto la partita adesso dallo stadio il primo tempo. Quando la palla va a palla al piede, secondo me Giabulani è abbastanza neutro, cioè non dà grandissimi problemi. I giocatori che toccano bene la palla li vedi, i giocatori che hanno difficoltà magari ne hanno di più, ma Messi la palla non la perde mai. Certo, non, su 22 in campo di Messi ce n'era uno. Però onestamente sui cambi di direzione, cioè sui lanci che tagliano il campo, la sensazione netta è che Giabulani metta in forte difficoltà. Io trovo, e ormai di partita ne abbiamo visto abbastanza, che più che i portieri siano in difficoltà davvero i giocatori, perché i portieri in un fatto secondo me sono avvantaggiati, cioè la palla non scende, e quindi quando ci sono le punizioni la palla non scende. scende mai quando supera la barriera, ma anche nei tiri da fuori ho visto un paio di conclusioni, una coreana e una argentina, la palla è partita bene ma non si è mai abbassata, e questo favorisce i portieri evidentemente, che possono coprire lo specchio della porta. La seconda è che invece mette in difficoltà i giocatori, perché il cross, anche se in realtà Higuain il gol l'ha fatto di testa, però non era un cross pulito perché era un cross pizzicato, sui cross e sui cambi di direzione lì Giabulani va e viene. Ti aggiungo però anche questo: qua c'è sempre vento e giochiamo a 1600-1700 sì. metri di altitudine. Tutto questo unito magari a un pallone non perfetto credo che crei delle difficoltà. Assolutamente, complica ulteriormente la vita. Allora, grazie a Fabio Tavelli, chiudiamo anche per oggi questo collegamento con Johannesburg. Segnalo che comunque Messi, nonostante 5-6 tentativi di primissimo ordine in questa partita e mezza che ha giocato finora, non ha ancora centrato la porta, o meglio l'avrebbe centrata senza Batman nella porta della Nigeria alla prima partita, ma insomma non è ancora riuscito a, e io credo che anche in questo il pallone possa avere una piccola, non dico responsabilità, ma insomma possa rappresentare una piccola spiegazione. È cominciato da 4 minuti il secondo tempo di Argentina-Corea del Sud, sempre 2-1 per i sudamericani, per l'autorete iniziale, il raddoppio di Higuain e poi l'errore della difesa argentina dopo l'uscita per infortunio di Samuel, che ha regalato il gol dell'1-2 ai coreani. Pirlo, Andrea Pirlo torna a toccare il pallone, leggo in un'agenzia appena arrivata dal Sudafrica, 2 settimane dopo l'infortunio, quindi come previsto il professor Castellacci, leggo su questa notizia ANSA, ha cominciato i test per riprendere l'allenamento a pieno ritmo in vista di un rientro il 24 giugno contro la Slovacchia. E poi ci sono molti, molti vostri messaggi, ci sono anche molte prenotazioni di interventi. Paolo da Perugia scrive: il mondiale è fatto di partite mediocri, questa è la verità almeno fino ad oggi, direi che con poche eccezioni. Questo è una valutazione oggettiva. Massimo Caponi scrive invece: in tutti i mondiali ci sono squadre che se stanno bene lo rendono più bello. In questa edizione mi pare di poter dire che Paraguay, Uruguay e Svizzera possono dirla loro fino a un certo punto del cammino, poi insomma la storia insegna che arriva un momento in cui gli ostacoli diventano troppo alti, ma certamente stanno facendo l'Uruguay ieri sera ha giocato una grande partita, certamente, perché poi i sudafricani non sono questo granché, ma giocano pur sempre in casa e per ridurli alla ragione devi smontarli prima, loro li hanno smontati benissimo, la Svizzera ha fatto un capolavoro contro la Spagna, il Paraguay ha giocato una partita molto intelligente e coraggiosa contro l'Italia, pur meritando fino ad un certo punto sul piano del gioco, ma rischiando, come sappiamo, è inutile ci ripetiamo, di vincere addirittura se il loro portiere non avesse regalato il pari a De Rossi. Vittorio ha chiamato da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, volevo sentire un parere suo in merito all'utilizzo da parte di Lippi per quanto riguarda Buffon, se era il caso, visto nelle condizioni in cui era, forse mi sembrava che già non fosse al massimo, di utilizzarlo in quella partita che poteva essere gestita benissimo con Marchetti, credo, visto che il Paraguay era quello che era, dopo poi abbiamo visto cosa è capitato a Buffon. Guardi, io credo che Lippi sia stato e sarà anche nel prossimo futuro la persona che avrà meno voce in capitolo nella decisione finale, perché io credo che insomma la leadership, il magistero di Buffon non si discuta, quindi credo che sia lui stesso a decidere se se la sente o meno, ovviamente con opportuno e preventivo parere clinico. Non è comunque come direbbero quelli che parlano bene in maniera manageriale, non è un problema in agenda, nel senso che nella migliore delle ipotesi se ne parla tra una decina o una quindicina di giorni, comunque non per Nuova Zelanda e Slovacchia, e quindi ci sarà poi tutto il tempo di valutare l'opportunità. Quanto alla partita dell'altra sera, beh, insomma, non mi pare che l'infortunio di Buffon abbia inciso, nel senso che quel pallone regalato ecco che forse l'Argentina. No, e invece ha parato il portiere avversario perché Higuain non è stato precisissimo, ma soprattutto perché gli argentini sono in uno di quei momenti in cui se non vanno in porta direttamente col pallone non sono proprio così contenti. Tevez avrebbe potuto, no, Di Maria avrebbe potuto calciare anziché rimetterla al centro. Non credo che facesse molta differenza, insomma, nel senso che né Buffon né Marchetti hanno dovuto parare in realtà, e il gol dei paraguayani era del tutto imparabile. Emanuele Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi. Due cose velocissime. Una, ho visto l'intervista a Rooney stamattina sulla Gazzetta, e riguardo al pallone lui faceva anche questa considerazione, che la Germania, loro in campionato il Jabulani lo usavano già da febbraio, quindi magari sono stati, diciamo, lungimiranti e magari si sono preparati un po' meglio con questo pallone, l'unica nazionale. E la seconda cosa, una battuta divertente stamattina di Gene Gnocchi sul rompi il pallone della Gazzetta, in cui ha scritto: un altro effetto strano di Jabulani, Gilardino ha fatto un gol in allenamento. Secondo me è abbastanza divertente. Grazie Emanuele. Andiamo a Modena da Giulio, buongiorno. Appunto, buongiorno Tor Garanzini. Buongiorno. Io vorrei tornare alla partita del Brasile. Sì. Secondo lei, Maicon, in virtù anche della gran stagione che ha fatto con l'Inter, in caso di esito positivo del mondiale da parte del Brasile, appunto, potrebbe vincere il pallone d'oro? Oppure, se secondo lei c'è qualche altro candidato, insomma, davanti a lui, ecco. Giulio, ma con un... le faccio una domanda io prima. Con un mondiale in pieno svolgimento, no? E con tutto quello che un mondiale propone in termini di tecnica, di tattica, di suggestioni, di fascino, di cultura calcistica, oltre che di cultura storica, ambientale, sociale, la metta come vuole, ma che ci fregano del pallone d'oro, per curiosità? Perché comunque riportare il pallone d'oro a un difensore sarebbe interessante dopo... Beh, sono passati 4 anni da Cannavaro, non è che sia un'era geologica, eh? Però io non vorrei che il mondiale oscurasse, anche giustamente, però troppo, il valore dei campionati che sono appena finiti, ecco, tutto qua. Ok, non ne ho idea, cioè è inutile che lei mi cosa. Io credo che Maicon sia un difensore, insomma, è un concetto abbastanza relativo, no? Maicon è uno di quei giocatori super moderni e che sono in grado di fare l'una e l'altra cosa, ma che eccellono soprattutto nella fase offensiva, direi. Credo che se l'Inter ha investito quello che ha investito su Maicon, se il Real si accinge a investire anche di più, io penso che non sia certamente per le attitudini difensive di Maicon quanto per quelle offensive. Mascherano mi sembra che stia per sì, sta restando a terra per evitarsi un cartellino giallo, ma tanto lo prenderà lo stesso non appena si alza. Adesso l'Argentina sta facendo un po' fatica, perché quel gol incassato proprio a fil di sirena del primo tempo peserà. Come peserà questo cartellino a Mascherano, perché è il centrocampista più tattico e con maggior senso della posizione dell'intera squadra. E quindi in prospettiva certamente è un'altra notizia non bellissima questa, nemmeno questa per Maradona. Però l'Argentina adesso sta davvero facendo un po' di fatica. Sentiamo ancora Maurizio, chiamato da Roma. Buongiorno. Sì, buongiorno, fa piacere di parlare con lei perché la seguo spessissimo, è una trasmissione breve la sua ma molto interessante, quindi complimenti. Mi sente? Certo. Ah, benissimo. Allora, volevo fare una considerazione in generale proprio sui mondiali, quando si parla di piccole squadre. Ecco, l'Argentina ha giocato un primo tempo che, se i nostri critici, mi riferisco a tutti coloro che scrivono sui giornali, avessero dovuto scrivere di un primo tempo così dell'Italia, io penso che tutti dicevano che sarebbe stato meglio che saremmo tornati a casa, perché vede che a volte il caso e la fortuna, il centravanti, l'unico che ha la Corea del Sud, becca la porta sua e non becca quella degli altri. Ma comunque, se esiste il dio Upalla, come diceva Gianni Brera, io auguro alla Corea del Sud di pareggiare, anche perché io tengo sempre per le piccole squadre e non per le grandi. Una considerazione poi finale per quanto riguarda l'Italia. Io odio gli anti-italiani, odio tutti coloro i quali ad ogni campionato del mondo ce l'hanno sempre col CT, qualsiasi esso sia, ce ne abbiamo una storia piena. Ho solamente un rimpianto storico, se mi permette questa notazione, quando Edmondo Fabbri non fece giocare Meroni in Inghilterra, ma ero poco più di un bambino, ma me lo ricordo come se fosse oggi. sa di fatto che anche una squadra come questa, dove si dice che non sono stati portati fuori classe, poi vorrei vedere quali fuori classe doveva portare Lippi. Balotelli, un ragazzotto che neanche nell'Under 21 ha dato segni di maturità con Casiraghi, Cassano che sappiamo benissimo che è inviso nello spogliatoio, e Totti che per decisione credo consensuale da parte dei due non è andato. Allora vengo alla finale, al finale. Io non voglio fare il commissario tecnico, ma le dico semplicemente come mi piacerebbe vedere giocare la nostra nazionale. Allora, con questa difesa e anche con Marchetti, che secondo me è un buonissimo portiere, penso che lo voglia la Juventus, così almeno si vocifera in tutti i giornali, anzi lo si scrive, e la difesa abbiamo come alternativa Maggio, quindi può essere benissimo quella che è, ma d'altronde meglio, basta guardare le 7 squadre prima classificate, mi trovi lei difensori italiani nell'Inter. Maurizio, io per il momento sto trovando l'orologio che sta scorrendo rapidamente, e quindi se riusciamo a chiudere questo intervento in giornata riusciamo anche a dare gli aggiornamenti sul traffico, i nostri soliti adempimenti. No, la faccio contento, la saluto e la ringrazio. No, sono io che ringrazio lei per il suo intervento. Il problema è che lei ha detto che le piace questo programma, ancorché breve, ha detto all'inizio. Il problema è che proprio la brevità, e se non la brevità, comunque la misura ci impone anche un certo limite agli interventi degli ascoltatori, pur se gradevoli, come certamente è stato il suo. Mezz'ora alla fine di Argentina e Corea del Sud, e sarà certamente una mezz'ora non semplice per gli argentini, che adesso stanno cercando di controllare il pallone, di surgelarlo, insomma di far passare del tempo, ma hanno corso 3-4 minuti fa un rischio incredibile su un'azione in velocità, tra l'altro una combinazione molto bella dei coreani, che poi hanno sbagliato di poco il tiro conclusivo, ma certamente la difesa argentina per l'ennesima volta è stata fatta a fettine letteralmente dalla velocità degli avversari. Ci sono ancora gli ascoltatori che vogliono intervenire, ci sono i messaggi che sono arrivati nel frattempo, c'è la mail di questo ascoltatore Pier Vincenzo Monaci, che scrive: che felicità indescrivibile per noi tifosi della Svizzera, che nel 2006 uscimmo senza subire una sconfitta e senza subire un gol, e quest'anno abbiamo un sogno. Il sogno è il derby Svizzera-Italia nei quarti. Dopodiché aggiunge: tutti rimarcano il gioco di ieri all'italiana di Isfeld. È vero che ieri sia pure con una versione moderna di catenaccio, cioè un 4-4-2 d'ordinanza, ma è indubbio che Isfeld abbia giocato a catenaccio e contropiede, anzi, come dicono gli spagnoli che l'hanno subito, abbia giocato a muraglia e contrattacche, che è il modo spagnolo di chiamare questa antichissima formula. L'attuale calcio svizzero, conclude Pier Vincenzo Monaci, è indubbiamente in crescita, come dimostra la recente vittoria in Africa ai mondiali Under 17. Speriamo che questo nostro sogno africano continui. Chiederei un attimo di pazienza ai due amici già collegati da Milano e da Macerata per sentire qualche altro aggiornamento sulle condizioni di Buffon. Per esempio, la diagnosi precisa, perché molti ascoltatori l'hanno sollecitata attraverso domande scritte, la diagnosi precisa che il medico sociale azzurro, professor Castellacci, ha dato del portiere. Questa piccola innetta di disco che comprime la prima radice sacrale della gamba sinistra, e per questo ha creato quei grossi problemi che avete visto tutti nell'ultima partita che c'è stata. Questa è la diagnosi. Abbiamo deciso che il ragazzo rimarrà con noi, effettuerà tutte le cure e naturalmente da parte nostra ci sarà tutto l'impegno per provare a recuperare il giocatore. E questa era per l'appunto una diagnosi. In realtà poi tradotto dalla normale, giusta cautela di linguaggio, insomma, diciamo che il mondiale di Buffon con ottime probabilità è finito, e se dovesse continuare sarebbe, se non un miracolo, certamente comunque un qualcosa di sorprendente. Sentiamo Roberto che ha chiamato da Milano. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Senta, io non è che voglio fare il di più, però Buffon è un bravissimo portiere eccetera, però questi non se ne sono accorti, perché io sono stato operato anch'io di ernia del disco 10 anni fa, alle 4 o alle 5 la parte sinistra, e i dolori sono incominciati molto prima, a meno che, non lo so, però ecco, potevano portare almeno, sapevano di questo, potevano portare magari qualche altro portiere. Adesso io potrei, io sono milanista, potrei dire Abbiati, ecco. Ma due li hanno portati i portieri, cioè sono andati in tre portieri. Sono andati in tre, sì. In genere succede, no? Che su 23 si portino dietro tre portieri. Non è che adesso l'Italia gioca a porta libera, nonostante Buffon. Buffon, a parte gli scherzi, Buffon è quella che Buffon ha accusato è la classica recidiva, perché il nervo sciatico l'aveva già tormentato quasi 2 anni fa ed era stata una sosta abbastanza lunga. Probabilmente se Buffon fosse stato un giocatore normale e le sue condizioni fossero state queste, ci sarebbe stato qualche dubbio in più sulla sua convocazione e poi sul suo utilizzo. Stiamo parlando, con tutto rispetto per Marchetti, per De Santi, per eventuali alternative, stiamo parlando di un numero uno in assoluto, e quindi è normale che si rischi qualcosa o si tenti magari qualche forzatura, no? I coreani, quando tentano di entrare col piedino anche alto, non si fanno invitare con i cartoncini, perché adesso per esempio su Heinz è andata bene. Heinz è un altro che non scherza, ma gli è andata bene perché il piede dell'avversario era davvero alto. Adesso siamo al 63esimo, mi pare, del secondo tempo. C'è una punizione abbastanza da lontano, però, che Messi sta preparandosi a battere, e il risultato è sempre di 2-1 per l'Argentina. Franco ha chiamato da Macerata, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Ho avuto la fortuna di conoscerla a Tolentino per la presentazione del libro di Rocco, che mi ha piaciuto, sì, molto. Certo. Mi faccio i complimenti per la trasmissione e le faccio una domanda riallacciandomi al discorso del pallone d'oro di prima, ma in maniera diversa. Vorrei capire per quale motivo una volta i palloni d'oro erano giocatori affermati e per lungo tempo, oggi basta che fanno una stagione bene e vincono il pallone d'oro. Ce ne sono diversi esempi. Sì, io non so come dire, faccio fatica tra novembre e dicembre ad appassionarmi a questa storia del pallone d'oro. Sinceramente a metà giugno, con un mondiale in pieno svolgimento, non riesco davvero a farci mente locale. Me ne dispiace, chiedo scusa, ma sinceramente non capisco che discorso sia. Cioè, io credo che già in un mondiale, se si parla di calcio, si faccia un po' di fatica a isolare la prestazione del singolo rispetto a quella collettiva, no? E credo che proprio un mondiale sia il ripasso del fatto che, salvo rarissime eccezioni storiche come Maradona nell'86, il mondiale lo vince una nazionale, e quindi lo vincono non so come dire, i Gattuso e non soltanto i Totti o i Del Piero o chi preferite voi, lo vincono i Mascherano e gli Heinz e non soltanto i Messi, eccetera eccetera. Se anche in giugno, quando abbiamo davanti questi esempi così lampanti, no, di calcio come gioco di squadra, continuiamo a parlare di pallone d'oro, e cioè di calcio come se fosse golf o se fosse tennis o se fosse scherma, io davvero faccio fatica a sintonizzarmi su questo approccio. Ho Capello, leggono un'agenzia, sembra intenzionato a confermare Green in porta tra gli inglesi, con tutti i rischi che la cosa comporta, ma d'altra parte altrettanto rischiose sarebbero le alternative, come si sa. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti prevedono Grecia-Nigeria tra poco più di un'ora nella partita pomeridiana, e stasera tocca alla Francia giocare col Messico e provare a raggiungere l'Uruguay, ammesso che ci riesca in testa, e non sarà facile in testa alla classifica. Nel frattempo mancano 25 minuti circa, no, un po' meno, 22 minuti più recupero alla fine di Argentina a Corriere Sud, e siamo sempre sull'1-1. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Flavio Suari in redazione, e vi lascio aggiornare radio. A tempo di sport.